9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 20 ottobre dal Gattaccio. Una giornata che potrebbe essere importante se davvero si arriva allo scioglimento del nodo da troppo tempo rimasto avviluppato per la successione di Mario Draghi alla guida della Banca d'Italia e se il governo ritenesse opportuno di dare ascolto alle parole pronunciate ieri dal Capo dello Stato. Ascoltiamola, riascoltiamola le parole di Giorgio Napolitano. L'intera comunità nazionale è giunta al lucido riconoscimento che, pur non potendosi sottovalutare le prove e gli elementi di sostenibilità che ha mostrato e mostra la nostra complessiva situazione finanziaria, è giunto il momento di abbattere gradualmente, ma a ritmo sostenuto e costante, il muro del debito pubblico accumulatosi nel corso dei decenni. Lo stiamo facendo, come indicano i decreti di luglio e di agosto adottati celermente in Parlamento, in ottemperanza agli impegni assunti, e intendiamo farlo senza alcuna incertezza e tergiversazione. Fare questo, creando al tempo stesso le condizioni per una nuova fase di crescita dell'economia e della società italiana, è nostro interesse nazionale ed è nostro dovere come paese fondatore dell'Europa unita, aderente tra i primi alla zona euro. Ecco, avete capito che il passaggio clou è darsi rapidamente da fare per l'abbattimento del debito pubblico. Uno dei punti espliciti posti nella lettera inviata dalla BCE al governo italiano in cambio del sostegno con cui la BCE regge lo spread tra decennali italiani e quelli tedeschi, e lo regge comunque a una quota troppo elevata per poterla considerare stabile di medio periodo, visto che viene traslata su clienti e imprese. E questo abbattimento implica che nelle misure che si attendono dal governo ci devono essere cessioni di patrimonio di debito pubblico, all'abbattimento del debito pubblico, o se non ci sono privatizzazioni, sapete qual è l'altra strada. Io sono molto critico verso l'altra strada, però invece i più ritengono che sia l'altra strada quella da battere, e cioè quella del patrimoniale, chiedendo a voi che siete in ascolto ancora una volta di mettere mano al portafoglio. Ma non c'è solo questo, perché nel prosieguo poi il Capo dello Stato ha voluto citare esplicitamente due volte il manifesto delle imprese, quello sottoscritto insieme oltre che da Confindustria, dal sistema bancario, dall'ABI, dall'ANI, alle assicurazioni, dalle cooperative, le cooperative bianche, rosse e laiche, e da Rete Impresa Italia, la Confcommercio e le associazioni dell'artigianato. E ha voluto farlo due volte perché da questo punto di vista evidentemente ha rimarcato che il governo sbaglia a ritenere che il manifesto convergente delle imprese sia improprio, sia per così dire un atto di ingratitudine, come hanno più volte detto esponenti del centrodestra, mentre invece quella è la strada da battere. E ha anche esplicitamente il Capo dello Stato ieri detto che aver incontrato il leader dei giovani di Confindustria è stato per lui due giorni fa un'occasione in cui si è sentito molto tirato su per l'entusiasmo dei giovani di Confindustria, che proprio questo fine settimana hanno il loro convegno a Capri, quello classico dopo la ripresa estiva, e in cui hanno deciso di non sentire i politici. Come viene giudicato su i giornali italiani e internazionali la vicenda della Banca d'Italia è vi è ben noto. Io richiamo solo il commento stamattina di Ferruccio De Bortoli, il direttore del Corriere della Sera: come pasticcio un capolavoro, la scelta per Via Nazionale. E la conclusione è di fronte all'ennesima girovolta di nomi, perché pare che sia Binismaghi il preferito, esclusivamente perché Sarkozy ieri ha minacciato esplicitamente se l'Italia non mantiene l'impegno di liberare il posto nel board, vista l'impossibilità di avere due italiani nel board con la successione a Trichet di Draghi, minacciava di denunciare l'accordo non mantenuto da Berlusconi, e per questo quindi si addiverebbe la nomina di Lorenzo Binismaghi Smaghi a Via Nazionale, dopo che tanti nomi sono girati, li conoscete: Saccomanni, Ignazio Visco, il direttore generale del Tesoro come candidato di Tremonti, Vittorio Grilli, era immersa anche Claudia Anna Maria Tarantola, il capo della vigilanza. La conclusione del commento di Ferruccio De Bortoli dà l'idea della serietà e della preoccupazione con cui si guarda le possibili ripercussioni di questa vicenda così troppo lungo protratta in questa giostra di nomi e compromettendo la nostra credibilità internazionale. Cosa scrive Ferruccio De Bortoli? Scrive che il timore è anche quello di una serie di dimissioni da Saccomanno a Visco, da Via Nazionale, gesto estremo, sconsigliabile a funzionari dello Stato, che farebbe precipitare la farsa della nomina del nuovo governatore della Banca d'Italia in un dramma istituzionale di difficile ricomposizione. E tuttavia sapete che esce dalle anticipazioni sulla stampa, e mi avvio a concludere la mia introduzione, in merito al tanto atteso decreto sviluppo, è ben lungi dall'essere attuativo di ciò che ancora ieri il capo dello Stato con tanta energia ha ricordato essere l'impegno del governo di fronte all'attesa dei mercati e di fronte all'impegno della BCE, a maggior ragione ora che alla testa della BCE c'è un italiano che naturalmente non ha un mandato di rappresentanza dell'Italia, visto che deve agire nell'esclusivo interesse dell'euroarea secondo i trattati. E sapete che del decreto sviluppo ancora ieri nuovo scontro tra Tremonti e Romani in merito ai finanziamenti, con il ministro Tremonti che ritiene che il più delle misure proposte dalla cabina di regia del ministro dello sviluppo economico siano inutili, siano inutilmente costosi. Si parla di misure in materia di infrastrutture con possibili sgravi IRES per incentivare gli investimenti. La norma prevederebbe che alla società che costruisce e gestisce un'opera potrebbe andare una quota fino al 25% per non più di 15 anni del gettito IVA, cioè vi sarebbe una retrocessione del gettito IVA aggiuntivo che quell'opera sarebbe in grado di creare all'erario, e questo renderebbe più immediatamente scontabile e finanziabile da parte dei capitali privati la realizzazione di queste infrastrutture. Fino a questo momento il Tesoro ha sempre detto no alla possibilità di retrocedere quote parte di flussi IVA per finanziare qualunque infrastruttura aeroportuale o portuale nel nostro paese. Vedremo se questa sarà la volta buona. Tra le altre ipotesi allo studio c'è l'avete letto, la pagella elettronica, e quindi l'estensione della digitalizzazione di documenti in parte della pubblica amministrazione, e norme varie sulle business. Sarebbe rispuntata l'idea di una polizza assicurativa obbligatoria sul rischio calamità alle case, per soprattutto per far fronte all'eventualità di zone sismiche, qualche estensione delle detrazioni per spese in ricerca e con l'attribuzione a questo di fondo di rotazione. Questo più o meno è quello di cui si sente parlare, oltre all'ipotesi di garanzie nei confronti di mutui acquisto prima casa per i giovani. Insomma, qualche cosa che è drasticamente lontano dalla scelta di abbattere debito pubblico, dalla scelta di intervenire su materie come l'accelerazione dell'azzeramento dei trattamenti previdenziali di anzianità. Restiamo fuori da tutto ciò che non è stato attuato delle richieste nelle lettere della BCE una volta che poi le abbiamo apprese. Allora, sentiamo dal professor Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica e scrive anche lui e commenta sul Sole 24 Ore, che ringraziamo per essere con noi. Che cosa pensa innanzitutto di come è venuta, di come sta venendo al pettine questa vicenda della Banca d'Italia, e che cosa pensa di quello che ha capito del dibattito franco-tedesco a poche ore di distanza, a pochi giorni di distanza dal vertice del 23 ottobre, rispetto al quale i tedeschi hanno detto non aspettatevi che assumiamo adesso norme decisive, quando invece l'attesa dei mercati degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, dei paesi emergenti è che davvero l'Europa assuma in materia di salvezza bancaria e salvezza degli euromembri misure decisive per evitare un nuovo caso di contagio come quello di Lehman. Professor Vaciago, che pensa? Beh, anzitutto che al di là della qualità delle persone, e mi sembra che l'ultima candidatura, quella che ha in mente il presidente francese Sarkozy, vada bene. È buffo che lo debba dire a Berlusconi, che lo debba dire al Consiglio Superiore e al Presidente della Repubblica, che il nuovo governatore della Banca d'Italia deve essere Bini Smaghi, che ovviamente ne ha tutti i requisiti, peccato che l'ha deciso l'Eliseo. Io trovo che da quando ha sposato un'italiana di origine il presidente Sarkozy fa un po' troppo i suoi comodi in Italia, anche perché non abbiamo noi un governo in grado di dire la sua. La forma in queste cose conta moltissimo, al di là del valore delle persone. Lorenzo sarà un ottimo governatore della Banca d'Italia, guai a loro se quelli che sono lì dentro non lo accettano. Il problema è la forma, e quando appunto il Financial Times in prima pagina ricorda com'è andata, noi facciamo l'ennesima brutta figura. Questo è quello che mi dispiace, ovviamente. Mi andava benissimo Saccomanni, in un paese civile probabilmente avrebbero fatto Saccomanni governatore e Bini Smaghi direttore generale, con diritto di successione fra 3 anni, ma quando noi torneremo un paese civile non è dato sapere. Venendo alla sostanza dei problemi e quello che il Capo dello Stato ci ha ricordato, non ci sono due problemi: ridurre il debito e tornare a crescere. Ce n'è uno solo, perché l'unico modo civile con cui riduciamo il peso del debito è di tornare a crescere. Questo lo vediamo tutti i giorni in Grecia, per inciso bellissima la battuta del Financial Times del governo greco, è una barzelletta, che dice forse sarebbe bene ricominciare a dire le bugie. La Grecia, gli abbiamo inflitto la cura del Fondo Monetario Internazionale, ovviamente sbagliata, per una regione monetaria. Attenzione, la Grecia è come la Sicilia, non è un paese sovrano che può svalutare e tornare a crescere manovrando il cambio all'euro, e quindi è come noi. A questo punto la cura di soffrire e svalutare, che è la cura ideale che il fondo ha applicato per 60 anni a tutti i paesi, per inciso negli anni 70 all'Italia, altro che lettera della BCE, eravamo noi che scrivevamo lettere al fondo rinunciando alla sovranità. In ogni caso, dicevo, c'è un solo modo per rendere sostenibile il debito che hai fatto, che è quello di servirlo con i frutti della crescita. L'hanno imparato tutti i paesi del mondo, guai a te se per danneggiare i creditori fallisci e perdi reputazione e per vent'anni non puoi più crescere e indebitarti sui mercati internazionali. Quindi il default cui stiamo costringendo la Grecia è quella che io chiamo la tragedia greca, cioè costretti a soffrire facendo condividere ai creditori nella sofferenza. Questa è la linea Merkel, che purtroppo non è la linea che avrebbe fatto Schröder o Kohl, qualche grande politico tedesco del passato. Condividere la fortuna, non condividere le disgrazie. Che razza di unione monetaria abbiamo fatto? Quella in cui puniamo i paesi perché i loro passati cattivi governi hanno imbrogliato? Ma io mi viene da piangere alla sera a pensare come i greci vengono trattati dal governo tedesco. Oltretutto ritengo che sia improbabile che l'ondata di protesta, diffidenza nei confronti di un'Europa ridotta a tecnocrazia lontana, spietata e indifferente nei confronti degli effetti che la deflazione obbligata ha su redditi disponibili di milioni di persone, non resti come uno dei dati politici per anni dell'edificio europeo e anche delle votazioni nazionali, dei cambi politici di governo in ogni paese. Professor Vaciago, c'è chi ritiene però che in definitiva questa, credo che sia uno dei motivi anche ben presenti nella testa del Ministro dell'Economia, che tutta questa enfasi su crescere attraverso misure pubbliche di incentivo, visto che di sostegno diretto non se ne può parlare nelle attuali condizioni di finanza pubblica, vi è chi come Ministro dell'Economia e tanti altri ritengono che sia un refreno un po' sbagliato, contraddetto da tanti anni di crescita depressa non solo nel nostro paese ma di tendenza generale, tranne rare eccezioni in pochi anni, del vecchio continente a crescere sempre meno, e quindi ci sarebbe, per così dire, una tendenza oramai di fase a diminuire il tasso di crescita per ragioni che sono strutturali, obiettive, dicono loro: l'appesantimento demografico, l'appesantimento dei costi del welfare, e questo è il modello europeo. Che volete da noi non sarà certo per una serie di misure e incentivi in questo quadro di finanza pubblica così compromesso che noi acceleriamo la crescita italiana. Chi propone uno scetticismo di queste proporzioni innestato su una lettura di lungo periodo dell'assestamento verso lo zero del tasso di crescita potenziale dell'intera euroarea, in particolare dell'Italia, che ha alcuni problemi aggiuntivi nel quadro di questo contesto, secondo lei che risposte merita? Beh, che la crescita che ci manca in Italia è il rifiuto della modernità. Quando arriva la rivoluzione ICT, il globo, la rete, il nuovo modo di produrre via più efficiente organizzazione e comunicazione, quando arriva l'ICT nei paesi civili, accelera la crescita della produttività. In Italia si riduce perché noi la rivoluzione non l'abbiamo capita. E Internet è stato aggiunto agli esistenti modi di organizzare e produrre informazioni. Io ricevo le stesse lettere e pacchi postali di una volta dall'Italia, dal resto del mondo solo email, e quindi la mia produttività è continuamente ridotta dal fatto che il paese non è diventato moderno. Attenzione, il catching up che abbiamo fatto nell'Ottocento e di nuovo nel dopoguerra ultimo era estendere all'intero paese la migliore tecnologia esistente. Se domani, da domani, buttiamo via fotocopiatrici, telefax, borse di carta, la smettiamo di abbattere le foreste per produrre carta, vietiamo l'uso della carta carbone e solo internet fa funzionare il paese, licenziamo un po' di postini e così via, ma fondamentalmente portiamo il paese alla produttività massima possibile, il PIL raddoppia. Capisco che il governo sia preoccupato di questa troppa crescita che ci meriteremmo e non osi affrontare lo shock, però il catching up che a noi resta da fare è la modernità, è adeguarci al 2011 avendo negli ultimi 15 anni. Io invito gli ascoltatori ad andare sul sito del loro comune. Ogni comune d'Italia ha un bellissimo sito, c'è la foto del sindaco, lo statuto, le ordinanze, c'è tutto. Poi provate a lavorare. No, ma che, vi dicono andate a fare la coda negli uffici. E allora questo di più è calo di produttività. Invito chi va in tribunale a vedere gli avvocati girare con montagne di carta. Come facciamo a avere una giustizia moderna con tutta quella carta? Queste cose le sa tutto il mondo, che ci evita. Queste cose in parte sono anche da illegalità. Come fai via internet a mandare 100 euro di mancia al dipendente pubblico che ti fa la tua pratica solo se gli dai la mancia? E peggio, la corruzione e tutto il resto. Da anni insisto che senza legalità non c'è crescita, perché è il mondo illegale delle banconote che rifiuta le moderne tecnologie. Ora, chiusura prima della pausa di pubblicità, il vero dilemma interno alla maggioranza e nella forbice che resta aperta tra Palazzo Chigi e l'economia è se introdurre nel decreto sviluppo, che con ogni probabilità non ci sarà comunque questa settimana, una cospicua misura di finanziamento straordinaria, un bel concordatone fiscale come quello del 94, all'epoca portò quasi 20.000 miliardi di lire, una possibilità di programmare per gli anni a venire i flussi di cassa tributari con un bel concordato di massa per quello che riguarda il passato. Avete capito che ovviamente c'è una parte buona di questa intenzione, ma ce n'è una negativa, perché si tratta ovviamente di un provvedimento che si assumerebbe con un bel condonone, ecco, e ovviamente non è qualche cosa di fronte ai quali i mercati internazionali, la BCE e l'Europa potrebbero pensare, se non che l'Italia ci rifà come sempre. E a dirvi la verità, avendo appena votato tra la fine dell'anno scorso e le due manovre estive di quest'anno 100 miliardi di euro di entrate in più, che faranno entrare il monte delle entrate pubbliche ben oltre gli 800 miliardi di euro l'anno, avendo disposto questa montagna di entrate in più a copertura per due terzi dell'attuale deficit pubblico e poi per la parte residua però di spesa aggiuntiva ulteriore nel prossimo triennio, non mi pare che la cosa migliore sia di dire ai contribuenti italiani che da una parte gli si chiede di mettere mano al portafoglio ordinariamente e dall'altra però si premia chi non lo ha fatto, perché capite che c'è un contrasto assoluto tra le due cose. Eccoci tornati per questa seconda parte della trasmissione dedicata alle risposte, da attendersi all'energico richiamo ancora una volta pronunciato ieri dal capo dello Stato, lo abbiamo rimandato in onda, avete sentito, abbattere il debito pubblico, misure per la crescita, ciò che mancava nelle manovre estive, chiestici per iscritto dalla BCE in cambio del sostegno ai titoli del debito pubblico italiano, e ci siamo chiesti se davvero siamo allo scioglimento di questa commedia, purtroppo, che non ha contribuito alla credibilità italiana sulla Banca d'Italia, e sia sarà davvero Lorenzo Binismaghi alla fine il candidato a succedere a Mario Draghi. Draghi, ci hanno raggiunto per questa seconda parte Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, con cui spesso commentiamo gli andamenti economici del nostro paese, grazie alla sua capacità di interpretare e dare in pubblico batteria di nuovi dati, e gli chiedo a Giuseppe Bortolussi, salutandolo innanzitutto, cosa pensa di questa voce sul concordato fiscale, ci serve un nuovo concordato fiscale di massa oppure no? Guardi, secondo me no, e spiego perché. Metta che anche riusciamo a prendere questi 10 miliardi, comunque è uno schiaffo a chi le tasse le paga e chi è costretto a dare anche il contributo di solidarietà. Vede, il discorso è questo, ha senso un concordato in seguito a una riforma, a una profonda riforma fiscale? Quindi ci sono delle questioni pendenti che si risolvono con il concordato, cioè si chiude una partita, mi spiego? Allora ha senso, lo Stato incamera qualcosa, ma lo scopo principale è quello di chiudere quelle liti pendenti, quelle cose non risolte che riguardano il vecchio ordinamento. Ma adesso fare un concordato di massa solo per incassare, per fare cassa, è una cosa che squalifica ancora una volta il nostro paese. Ma se lei mi dà un attimo di tempo, io ho scritto un po' di punti, qualcuno forse non sarà così serio, ma io non sono né sì, anche le pagelle via web servono, anche gli incentivi, ma secondo me, vede, ci sono delle cose molto importanti che bisognerebbe mettersi d'accordo a livello esterno, mettere il bavaglio ai tedeschi quando parlano, mi spiego, ci costa una manovra, sia la Merkel sia i ministri e i cosi, dice che non è semplice. Non è semplice, ma bisogna pure farlo capire. Basterebbe fare la storia di quando uno ha cominciato, la Merkel, a parlare della Grecia che non la voleva salvare. Ci è costata la manovra correttiva ogni volta che ha parlato. La BCE è troppo impegnata sul fronte solo della lotta all'inflazione. Abbiamo dei tassi più alti di tutti gli altri paesi e bisognerebbe abbassarli per dare un segnale positivo. Il piano salva stati è l'unica cosa possibile, perché non abbiamo più le svalutazioni competitive. Cosa deve fare uno Stato che va in difficoltà? Perché il problema è che il cambio che è stato fatto a suo tempo con l'entrata nell'euro è sopravvalutato. Abbiamo cominciato a 0,80 con il rapporto euro-dollaro, siamo a 1,30, ma siamo arrivati anche a 1,49, quasi il doppio. Sul fronte interno, secondo me, sono indispensabili velocemente, per dare un segnale di cambiamento, di inversione di rotta, la privatizzazione delle municipalizzate. Una cosa importante è che le piccole aziende hanno difficoltà sì di accesso al credito, ma avanzano anche circa 70 miliardi dagli enti pubblici. Ora, questi non ce li hanno, non li possono tirar fuori, ma almeno che ci sia una norma generale fatta dallo Stato che tramuti questi debiti in titoli liquidi ed esigibili, in maniera che la piccola azienda possa andare in banca a sue spese, pagando lei, può possa ricevere i soldi, è un finanziamento su quello che avanzano dagli enti pubblici. Questa mi sembra una cosa di civiltà. La BCE parlava anche di taglio però delle spese per il personale pubblico, è sempre impopolare, è brutto dirlo, ma negli ultimi 10 anni l'aumento della spesa per i pubblici dipendenti è stato di 38 miliardi, se continua così voi capite, i 10 miliardi di condono, di, chiamiamolo, di concordato di massa te li mangi in pochi mesi. Incoraggiare, secondo me, è una cosa importante anche questa, fondamentale, incoraggiare gli italiani ad appropriarsi del loro debito pubblico. Il Giappone ha un debito molto più alto, il doppio del nostro debito pubblico, però non ha i problemi che abbiamo noi perché è quasi tutto detenuto dai giapponesi. E la stessa cosa, gli italiani siamo il 55, mi pare, 57%, bisognerebbe incoraggiare questo, sottoscrivere i titoli a lungo termine, titoli italiani, perché gli italiani sono grandi risparmiatori, tra i più grandi risparmiatori del mondo, ma soprattutto hanno una grandissima ricchezza, 8.500 miliardi tra ricchezza mobiliare e immobiliare, quindi potrebbero sottoscrivere il loro debito pubblico. E c'è un penultimo punto, un eventuale prestito forzoso. Questa sembra una cosa buttata là, ma proprio l'altro giorno sentivo un'importante relazione di Jean-Paul Fitoussi, il quale ricordava che Giscard d'Estaing l'ha fatto, il socialista Mourois l'ha fatto e l'ha fatto anche Schwarzenegger nel 2009 in California. Secondo me queste cose, alcune di queste, sono fondamentali, soprattutto quello di riappropriarsi del proprio debito pubblico, ma anche dell'eventuale prestito forzoso. Anche questo darebbe forza al nostro paese, nel senso che sarebbe meno sotto attacco, di meno perlomeno. L'ultimo sarebbe quello di pregare. Bene, non so se è l'ultimo o il primo, perché per fare tutto questo occorre un quadro capace di prendere alcune, tutte, anche di più delle decisioni illustrate da Giuseppe Bortolussi. Esattamente quello che manca ed è esattamente quello che, a ripetere da parte mia, provoca reazioni da parte degli ascoltatori che la pensano in un modo politicamente, dicendo: ma che cavolo vuoi, gli altri erano peggio. Non si tratta di stabilire che se potrebbe fare di peggio, se facesse, se ha fatto in passato di peggio la controparte politica. Non è questo il criterio è che cosa bisogna fare ora e che cosa non fa chi c'è ora. Io giudico solo questo e in larga misura mi ritrovo in questo elenco di priorità di Giuseppe Bortolussi. Ci ha raggiunto il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Jacopo Morelli. Abbiamo iniziato la trasmissione evocando il convegno di capi e ascoltando le parole del capo dello Stato ieri, che ha voluto ringraziare pubblicamente. Non capita, è rarissimo che dica: ho incontrato i vertici di un'associazione imprenditoriale e giovani di Confindustria l'altro giorno, è stato per me, ha detto il capo dello Stato, un motivo di particolare gioia sentirli così impegnati per questo paese. Jacopo Morelli, quando ci siamo sentiti qua a questi microfoni avevate avanzato una serie di proposte alla politica, 3-4 proposte per sbloccare la crescita, incentrata esattamente sulle imprese giovani e sui giovani che vogliono lavorare. Nel frattempo che cosa è successo rispetto alle vostre proposte? Beh, buongiorno. Allora, le proposte sono cadute nel vuoto, nel senso che non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta, e questa è la cosa più grave. Su delle proposte si può essere più o meno concordi, però in una dialettica, un'interlocuzione appunto istituzionale, è necessario dare delle risposte, anche questo è segno di leadership. E comunque noi non molliamo, perché le nostre proposte sono ancora lì e sono ancora valide. Riguardano appunto la riduzione delle aliquote fiscali per i giovani e le donne, abbassare il cuneo contributivo per chi entra nel mercato del lavoro, detassare le nuove imprese e abolire il valore legale dei titoli di studio, che ahimè lo chiedeva già più di 60 anni fa il presidente Einaudi, se ne parla ancora ma non è stato fatto. Noi siamo restati come giovani imprenditori molto soddisfatti dell'incontro avuto con il capo dello Stato, abbiamo cercato di rappresentargli la situazione dal nostro punto di vista. Chiaramente noi nel fare e nel formulare le proposte cerchiamo sempre di partire da una solida base scientifica, questo è possibile grazie all'immensa produzione fatta da Istat, Banca d'Italia, Ocse, insomma le fonti non mancano, l'importante è avere però come diceva prima anche lei, la volontà a questo punto politica di fare certe cose, cioè non è necessario inventarsi delle ricette straordinarie, tutti sanno quello che è necessario fare, il problema è che nessuno lo vuol fare. Non le chiedo giudizi politici, le chiedo un confronto comparato, se da quello che conosce dall'attività del suo gruppo, da quelli degli imprenditori di cui conosce più direttamente la situazione, in questi ultimi mesi, se dovessimo pensare a come la Spagna, per esempio, paese in difficoltà, ma che a un certo punto ha cambiato marcia, ha preso anche la decisione a un certo punto di convocare elezioni politiche, ma se dovesse giudicare, secondo lei, come i paesi meno forti dell'Europa, al di là quindi della Germania e della Francia, che pure rischia anche lei di perdere la tripla A sul debito pubblico, ma negli altri paesi, se dovessimo fare una graduatoria di come ci si è mossi meglio e peggio, ecco, e lei dovesse dire, ma come mai l'Italia non riesce a trovarla, la marcia ingranata? È solo una questione più che altro di difficoltà politica per questo governo, o ci sono anche ragioni come quelle di cui ha parlato sul Corriere della Sera due giorni fa, per esempio Francesco Giavazzi, che ha sollevato un'accusa molto forte, quindi abbiamo parlato immediatamente quel giorno stesso nei confronti di Confindustria, dicendo ma in realtà l'associazione degli imprenditori, in particolare Confindustria, dicono, additano alla politica i suoi errori, ma in realtà rappresentano un interesse così particolare che collude con altri interessi particolari e diventa una delle ragioni, se non una delle ragioni fondamentali per cui in Italia le riforme non ci sono. Lei che pensa? Beh, allora, la prima cosa è che trovo absit ignoria verbis per il professor Giavazzi un po' grossolana e superficiale la sua, in questo caso, analisi per quanto riguarda Confindustria, anzi mi piacerà poi farle avere, ne avrà sicuramente, ma insomma, copia di qualcosa scritto un po' di tempo fa da Tocqueville e anche lì da Einaudi, in cui cioè è chiarissimo come il ruolo di associazioni come Confindustria, in generale libere organizzazioni, insomma quelli che sarebbero stati definiti un tempo i corpi intermedi della società, invece sono proprio di stimolo attraverso proposte e controllo e vanno a arricchire una democrazia. Io faccio un esempio per tutti, per quanto riguarda Confindustria. Senza, diciamo, la presenza di Confindustria in tutta la fase delicata per esempio dell'arrivo alla moneta unica, all'euro e quindi agli accordi del 93, oggi certamente non ci sarebbe per l'Italia l'euro, probabilmente non ci sarebbe neanche per l'Europa. Quindi insomma, accusare che Confindustria sia il male che va a bloccare il paese mi sembra oggettivamente ingeneroso. Sottolineo tra l'altro che le decine di migliaia di imprese, anche le piccole imprese che aderiscono a Confindustria, ci stanno in maniera libera e francamente lo fanno per un motivo leggermente superiore, che è quello di bloccare il paese. Anzi, tutti noi siamo a lavorare per cercare di poter avere un paese più libero, più forte e più orgoglioso. Questo come dato di partenza. Il problema dell'Italia è che attualmente l'inerzia di chi ha responsabilità di governo penalizza ulteriormente e va a peggiorare una situazione in cui l'Italia, lo sappiamo benissimo, da più di 11 anni cresce pochissimo, abbiamo dei deficit di produttività rispetto agli altri partner europei molto forti, e c'è anche lì una questione di approntare finalmente quelle riforme strutturali che sono nel cassetto, quelle sì da decenni. Io ho anche un'impressione aggiuntiva, è ovvio che il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria non può parlare troppo esplicitamente di questo, io sono un osservatore libero, a me non colpisce che i giornali vicini al governo si comportino come il Foglio di Giuliano Ferrara, che mena la clava ogni giorno presentando Confindustria come un'associazione in cui c'è questa stupenda azienda che fa molto per la crescita italiana, che si chiama Fiat, e migliaia di imprenditori italiani che la seguono fuori da Confindustria verso questa meravigliosa prateria di strepitose risultati ottenuti con prodotti che acquistano nuovi mercati, sto naturalmente con un po' di sarcasmo, non mi meraviglia perché gli amici del governo bastonano con le parole. E questo è il metodo che alcuni di loro seguono per creare consenso, in questo fervore di consenso strepitoso verso questo leader capace di grandi risultati, che sarebbe il Presidente del Consiglio. E di questo non mi sorprendo, fa parte di una articolazione, per così dire, carismatica del giornalismo, che spesso, quando i fatti non sono a favore delle tesi che si sostengono, basta crearle con un po' di clava. Ma che si aggiunga a questo anche il Corriere della Sera, beh, mi fa riflettere, perché questa è un'opa aggiuntiva sulla nomina del successore di Emma Marcegaglia. Il Corriere della Sera, insomma, sono interessi rilevanti, e con tutto il rispetto per il professor Francesco Giovazzi, che conosco da tanti anni, il fatto che il Corriere della Sera si candidi a esercitare, visto che è di lì che abbiamo appreso i nomi di tutti gli ultimi candidati alla successione di Emma Marcegaglia, da Bombassei a Rocca e così via, lì c'è un altro ruolo, e forse bisogna parlarne esplicitamente. Io mi auguro che gli iscritti a Confindustria facciano quello che non si fa in nessuna grande associazione o partito nel nostro paese, cioè scelgano votando con le urne sulla base di programmi, così danno una bella lezione a tutti quanti quelli che la danno a loro. Sentiamo cosa ne pensano un po' di nostri ascoltatori, cominciamo con Christian da Brescia. Prego Christian. Sì, buongiorno, mi sentite? Cercherò di essere telegrafico. Allora, se vogliamo veramente eliminare il nero, l'evasione, la corruzione, c'è solo una soluzione: anche triplicare il PIL volendo, si può fare tranquillamente in neanche un anno. Allora, cosa c'è dietro al nero? I contanti. Eliminando i contanti, noi andiamo praticamente a eliminare tutti questi problemi e a triplicare il PIL, semplicemente così. Bene, come tutte le soluzioni per semplificatorie, ha una sua chiave di radicale attinenza con i problemi. Io dubito di soluzioni così radicali, ma questa resta la mia opinione. Matteo, dalla provincia di Bergamo, prego Matteo. Sì, salve, cerco di essere telegrafico anch'io. Io rimango sempre un po' esterrefatto e perplesso quando si discutono questi problemi che da vent'anni che ci attanagliano: il debito pubblico da una parte, le tasse dall'altra, il debito privato. Ma ci troviamo in una situazione internazionale di debito generalizzato di stati, cittadini, imprese. Com'è possibile che non si ponga all'attenzione dell'opinione pubblica il problema centrale, cioè che il denaro oggi nasce come debito di stati e cittadini nei confronti del sistema bancario? L'equivalenza tra denaro e debito alla radice. E questo è il problema per cui siamo tutti indebitati. Se noi modifichiamo questo fattore di fondo, se il denaro, come pensa la maggior parte degli italiani, paradossalmente, ma non è assolutamente così, se il denaro nascesse di proprietà dello Stato e dei cittadini, noi in sei mesi risolviamo il problema del debito pubblico, delle tasse, delle infrastrutture dello Stato e rilanciamo l'economia, come storicamente è stato fatto in moltissime epoche storiche, fin dal codice di Hammurabi nel 2000 avanti Cristo. E su Hammurabi fermo Matteo. Enrico da Padova, brevissimo anche lei. Sì, buongiorno. Senta, io non entro nel merito di questi discorsi perché ormai ascolto tutti i giorni la vostra trasmissione e sento sempre le solite chiacchiere da parte di questi ipotetici politici. Dico solo, io sono un cittadino italiano, sono sdegnato e mi vergogno a questo punto di avere una classe politica del genere che pensa solo ed esclusivamente ai propri privilegi. I sistemi per risolvere i problemi ci sono, ma non li vogliono attuare. Mi fermo qui. Enrico, io credo che per caso con le sue parole abbiamo chiuso con un tono e un contenuto che io condivido integralmente, e sono molto amareggiato del fatto che parecchi ascoltatori purtroppo credano che dipenda da cambi di opinioni politiche. Non è questo il punto. Questo è un paese che ha le risorse, ha le possibilità e conosce le soluzioni ai suoi problemi. È in grado, per capacità umana, di metterla in atto, e a questo anteporre davvero aver compromesso la credibilità del signor Presidente del Consiglio e del suo governo e anteporre a questo l'obiettivo di durare è un peccato di stupidaggine politica ed è un'incomprensione profonda di come questa frattura resterà, si produrrà sempre più manifestamente e apertamente tra la base politica che lo ha eletto e il futuro di quella stessa idea politica che egli ha incarnato in passato, perché oggi non la incarna più. E questo non c'entra più niente col debito di riconoscenza verso che sì, ciò che Silvio Berlusconi ha rappresentato e ha fatto. È una mera constatazione di fatto rispetto a mercati e problemi di stati ed economie nazionali che sono molto seri e a cui purtroppo noi abbiamo dato il nostro contributo in peggio e non in meglio. Grazie a Jacopo Morelli, grazie a Giuseppe Bortolussi, grazie al professor Vaciago, grazie a voi tutti. Linea Generale Radio, appuntamento a domani. 9 in punto.